anche casa mia, come stesso sono materrato l'anno scorso, ero solo qua in campagna, era rosso, ma ci ho fatto un mucchito in graticolo a topica, anche, mi sono messo il tavolino, ho mangiato l'aperto e sono stato così bene, per rischiare di rischiare, ma una volta regala 400 euro, ma chi sono macchi? Ma infatti, questo che diceva solo stronzate, ciao Dani, buonasera, ben ascoltato. Mi ascolti bene lì? Picchi positivi o negativi? Perché tu mi hai mai detto picchi negativi, forse il suo barracchino, come dire a te, va bene? Sì, ciao a tutti, ciao. No, poi arrivi bene, solo che sei sceso di 10 poco adesso, poco fa eri a 9.40, non so come mai. Invece Tonino lo stesso sempre fissa a 9.40. Cioè parlando sono sceso di segnale, è impossibile. Poi c'ho anche lo strumento sotto controllo, perché quando attacco il 4.30 attacco sempre un attimo e lo smetto. Tutto a posto qua. Ma te hai messo lo strumento che ho trovato io? Eia, c'è quello, sì, attaccato proprio per... Questo mi servirà per fare questa prova, perché il 4.30 non ha l'autocontrollo come il 4.40 dallo Smith, quindi mi serve lo strumento esterno, io non ce l'ho. È tutto sotto controllo, questa è 30 watt modulati, picchi di 40. 9.15 positivi, 9.15 positivi, buonasera a tutti. Ah, sono i tre, sono sceso, non è più 9.18, 9.15 positivi. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Ciao Claudio, ciao l'amico di Sant'Orsola, dai, che non mi ricordo adesso il nome nativo. Ciao Tonino. Tonino, tu hai ravvedato un drogato, ravvedato, per quello che ti ha dato con l'informazione sbagliata. Ciao Giulio, ma veramente io ho telefonato perché non avevo nessuna intenzione di spostarmi dalla città, prima passo. E questa amica mia, carissima, dice, ti invito a casa mia, a Pasqueta, ma se rosso così, dice, no che cibo, io ho chiamato così con l'altro. E ho telefonato davanti a lei, tanto è vero che ero incredulo, e chi mi ha riposto così, ci ha fatto una brutta figura, boh. Poi pensando, ma chi sono andato in escito, fatelo chiamare in questura, ai carabinieri e dire, ma scusi, mi hanno detto di fare questo numero, 1500, a chi corrisponde? E vi ritiro quello che dicono, perché sennò va a finire sto casino. Bene, Meda, comunque, io sto usando un altro apparato, Giulio, un President, è stato in fissa a Povecchiotto, come ci sta arrivando? Radio ottima, 9 più 16, 9 più 16 radio ottima, perfetta. Vabbè, già va bene. Comunque Claudio, lo smitter mio è quello che è avaro, ti ho detto dall'inizio, bene film funziona bene, si abbassa il segnale, però al massimo, ripeto, sì, se ti conosco, non è colpa mia, è dello smitter, tutto qua. Ciao Donis, riprendi. No, scusa che stavo sbagliando, Tonino, 9 più 16, 9 più 11, 9 più 11. Scusa, se ti arrivo 9 e 11 così, allora, così come ti arrivo Santiago 9? Sì, con la portante Santiago 9, modulati 9 e 5. Ah, vabbè, allora tocca lasciare così, da, ci ho preso. Ho messo lo sgabello sotto. Avanti, Dani. Sì, ciao Giù. Mi chiamo sempre Danilo, non l'amico di Sant'Orsola. Sempre Danilo. E eccomi. Sì, ciao Danilo, sì poi sì, ti conosco anche di persona quando io di via del Portatore. Cioè, qualche annetto fa ce l'abbiamo parlato, se ti ricordi, comunque vabbè. Chi era l'altro amico che avevo entrato? Ciao Danilo, avanti, chi era l'altro amico? E allora, buonasera, eccomi, mi era sentato poco fa. Sono rientrato, dai, ciao Danilo, ciao Giulio, ciao tutti gli amici che sono entrati, che sono all'ascolto, avanti. Ciao Gianni, ben entrato. La radio è fortissima, però non è pulitissima, per conto mio, poi gli altri non lo so come ci sento, perché io ci sento con una specie di sforzizia nel microfono, è fortissima, però sarà per quello, perché è troppo forte. Avanti Claudio. Sì, già, l'ho notato anch'io, è troppo forte, li abbassare appena, stavi quasi per strappare. Poi Giulio, quando aspetta a te, dici se è tornato come era prima. prima segnale, messo la potenza normale che uso sempre col 430, se è tutto a posto, se è pulita la radio, se eccetera eccetera. Avanti, Tony, riprendi, vai per Gianni, vediamo un po' se è abbassato il segnale, cioè la radio. Ok, ma per me comunque c'è più chi... Vabbè, dopo dico un po' che cosa aggiungi, devo dire. Avanti, comunque Gianni è ben rientrato. Gianni. Eccomi qua. Adesso la radio va meglio, l'ho abbassata. Sento questo fruscio che prima non avevi. Sembra proprio questione di troppo forte. O stai dando troppo potente la radio? Potenza 65 watt. Vabbè, comunque lasciala così, dai. Va bene lo stesso. Avanti, Davide, riprendi tu, poi vai per Giulio, quello che deve essere tutto a posto qua, questa radio non la stavo usando, voglio capire se è tutto regolare. Sì, no, è vero, quando stavo modulando si sentiva il rumore, la voce brutta si sentiva, là, non era limpida. Sì, sì, dai, continua giù, vai tranquillo. Sì, ok, Dani. Sì, beh, in effetti era così, ma da ieri, mi hanno detto anche ieri a Gianni che la sua radio non era la sua, quella bella pulita. Va bene, sì, qualcosina è aumentata adesso, qua, vediamo un po', fra un po' ti mando anche il video, ok? Sì, se no, mentre scrivo mi dai sempre 18, non capire se era un problema, perché... Non lo sto usando, sto sempre in Galaxy, oggi ho deciso di usare questa e ho attaccato anche lo strumento esterno per controllare bene il watt e tutto, ma penso che sia a posto, era forse un problema di watt. L'ho messa a 20 watt come la metto sempre. Ok, tra un po' ti mando il video, dai, così te ne rendi conto da solo. Avanti, Tonino. Cappa. Ma io questo controllo che mi hai dato proprio, prima ho dato 9.16, poi Santiago 9.11 come mi hai dato, poi mi hai dato Santiago 9 con picchi positivi 9.5, ma non mi meraviglio più di tanto perché io da poco sono sceso nella zona degli punti e stavo cercando una signora che ha comprato un TV. E cercando le vie, tra, sa che ho visto l'antenna tua, beh, quindi con l'antenna che ti porti, quindi non mi posso dire no, devo arrivare per forza bene a Giulio, anche se l'arrivo a Santiago 8 lo posso capire, per le condizioni in cui hai l'antenna tu, e in che posizione sei. Ok, Tony, ti mando il video tu, così vedi, anche a te mando il video, poi vedi tu. Avanti, Dani. Danilo. Mi sono spostato un attimino, 5 secondi in bagno. Eia, no, cos'è che stavate dicendo che non vi stavo ascoltando in questo momento? Niente, volevo capire solo se era tutto a posto e basta, pure a me il controllo non è che mi interessa più di tanto. Basta sapere se è tutto a posto lì da te, va bene? Così come adesso. Sì, no, non c'è da dirti niente, esci pulito. Sei bello che è pulito come voce. Anche come segnale, va bene? Sì, 9.30. 9.30. Visto? Te l'ha detto anche lì. Hai visto? Anche lì conosce lo smittere. Va bene allora, ok. Avanti già, riprendi. Danni. Ma tutti si spostano, Sì, stanno controllando Gianni, ma non c'è niente a controllare, va bene, già. È una questione di regolazione, magari. Comunque già va bene, per me va bene. Io quando mi sento va bene tutto, non c'è problema. A me arriva lo stesso bene, come radio, perfetto. Infatti non ho detto niente perché è ultimo come radio. Non sai qual è il problema, Tony, con questa radio che abbiamo noi, soprattutto il K. Guarda, percepisce una minima stronzata, infatti a volte sorvolo perché le conosco queste tipi di radio, sono talmente precisine che se vai appena o più su o più giù con la modulazione, soprattutto quando vai più su, che hai l'NB inserito, devi disinserire perché ti manda la radio in distorsione, capito? C'è questa differenza dei baracchini, infatti io preferisco sempre usare il Galaxy perché Roma intende tutti una maniera e basta, lì che sono troppo sofisticati. Infatti, i baracchini più semplici sono i migliori, diciamo. Ma io ho lasciato il Galaxy un po' a riposo, dai. mi piace questo qua, modulare, poi niente, insomma, che domani mi attacco tra loro Galaxy e faccio un po' uno, un po' l'altro. E poi più da metterò il Cobra. No, ma infatti è anche spento, guarda il Galaxy, perché si era sempre acceso. E da quando l'ho ritirato il 430, da quando me l'avevo mandato al centro assistenza, l'ho usato due volte, ma... E ci facciamo andare il 430, anche se non ha problemi, non è come il 440, che questo è molto più meccanico, quindi lo puoi lasciare aspetto quanto vuoi, non c'è un problema, però detto ce la facciamo andare un po'. Avanti Giulio. Ok, tra un po' mi mando il video, dai, così lo vedete. Comunque adesso hai aumentato un po' ancora, hai aumentato ancora un pochino, sei quasi tornato al tuo standard normale. Sì, Dani. Sì. Esce le batterie. Cazzo, che hanno chiuso la tocca a tocca i bizzini. Dai, adesso chiudo. Vado un attimino a farmi la barba e la doccia. Dai, ci sentiamo più tardi. Sennò dopo si fa troppo tardi. Ok, ciao Dani. Buona doccia, buona barba. Ci sentiamo alla prossima. Avanti, qua. Ciao Dani, tante cosce belle, buon fine domenica, buon tutto, salutoni e ci ascoltiamo alle prossime, dai. Avanti Giulio. Ok. Ma chi è entrato? Luca è entrato, mi sembra stata la voce di Luca. Luca, tu sì? No, dai, dopo rientro, no, non vi preoccupate. Intanto non sto spegnendo niente, spengo solamente la radio e basta. No, mi era sembrata la voce di Luca Flipper, mi era sembrata, ma forse mi sono sbagliato. Avanti Gianni. Lasciamo diventare, sembrava un'avione. No, c'è stato un attimo di bianco, non era il sovrambulazione. Non sento niente. Avanti Tony. Io guarda, mi sono ben sdraiato. Non è che posso stare molto in piedi per il problema che ho, quindi. E niente, quello che devo fare l'ho fatto, ho sistemato anche tutta quella trazione, però sto mobile non mi piace più. Certo, mi progetto un altro e quindi però non la giocare per nulla. Quando poi sto meglio me lo faccio. So già cosa è il materiale che devo prendere e lo faccio più carino. Anziché avere soltanto un ripiano ne avrà quattro e due sportelli sotto che faccio la scarpiera. E me ci sta tutto. Ah, di quello ho capito. Aspetta. Ecco qua, stavo regolando. È di quella che hai già fatto, eh. Va bene. Già per elogio. Avanti Giulio. Ok. Sì, sei arrivato praticamente al tuo livello. Non riesco a fare il video, mi è uscito buio, l'ho fatto due volte, ma sempre buio, no? Se non si vede un accidente. Non lo so, cosa ha pigliato il tuo telefonino. Già ci risento comunque, già ci risento. Vediamo se è rientrato Gianni. Gianni, sei rientrato, se no riprendi tu, Tony. Ci mette letto che ci stava allontanando, Vabbè Giulio, non ti preoccupare, a me basta che sia come sempre, 18, quello non mi interessa. Era giusto per avere un riferimento di regolazione, qua per 6.430 non ha nello smitter la scala delle power, capito? E quindi per regolarlo ho dovuto attaccare il rosmo, adesso so com'è. Ho fatto un riferimento a Santiago 5 e lo lascio stare così, va bene. Guardate che siano positivi e sia tutto a posto. Ho provato con la porticina che avevo fatto fuori così grosso e l'impregnante non la prende, capito? Mentre l'altro tipo di legno che ho visto sì. Noi abbiamo parlato in due, perdonami. Che cosa hai detto? No, stavo parlando del fatto del mobile, che quello che farò è da 2 cm e questo è quasi da 3, capito? Ed è levigato quello che prendo, che costruisco e posso dare l'impregnante, cosa che questo qua l'impregnante non lo prende, tutto qua. Ah, mi sei parlare di materiale legnoso, parla con Giulia che intanto io non ne comprendo un accidente. Vai Giulia. Ok, cosa sei convenendo? Tony, se devi prendere materiale per fare un mobile discreto, poi devi comprare l'isellare ed è 19 mm ed è perfetto per fare mobili. tra l'altro è anche un materiale che si può anche lucidare, eccetera, eccetera, perché è di un materiale prefatto, cioè è pregiato, per cui va bene così. Vitellare, ricordatelo. Ma io ho preso già un pannello da 2 metri, da 2 centimetri per 40, e invece non va derrato, ammette levigato. Ammette levigato, cosa te ne vai? Ammette per fare i mobili, sempre per la carne, cosa ti credi che sia? Comprati un pannello, costa 54 euro, mi sembra, è lungo 2 metri e 22, se ricordo bene, per 122. Te lo fai tagliare anche alla misura che ti serve, te lo tagliano loro direttamente, e non fai altro che assemblare direttamente, cosa sai chi va per il tempo. E hai un pannello pregiato, tra l'altro. Ma Giulio, allora non sono così, diciamo, scemo di comprare quello che mi stai dicendo tu, perché non mi devo fare un mobile per casa mia, allora ti do ragione, lo farei, ma per farmi un mobiletto come voglio io per il baracchino, non posso morire in legno pregiato, me la futa sai, un domani te lo apro, capito mio Giulio? Ecco perché prendo questo pannello qua in ambiente levigato. E vabbè, fai come vuoi, però sempre una cosa da mettere, non è che siamo... perché la spesa non è nemmeno eccessiva, mi. Se consideri poi che il pezzo che ti avanza te lo utilizzi per altre cose ed è sempre un materiale pregiato, costa appena 4 euro, ti sto dicendo, non è che costa un'eccessività, per cui non è un problema. Poi tra l'altro lì c'è la macchina, te lo fai tagliare alle misure che ti piace e il resto quando ti avanza te lo consegui, ti serve per altre cose. Sicuramente, guarda, intanto so che tu fai sempre dei lavoretti, prima o poi ne avrai necessità di altro materiale, tutto lì, Tony. Ma ripeto, non è per il prezzo, perché ripeto, ma materiale, diciamo, ottimo, per buono, per fare questo che voglio fare, non ne vale la pena, capito? È un momento che è una parte, basta, ma è... per avere, diciamo, ripiani in più, perché c'è soltanto un ripiano, c'è uno sopra l'altro, c'ho il televisore, c'ho l'armeggiatore, è un casino, non si capisce nulla. Quindi, ma la cifra che sto spendendo io è già quasi 50 euro, ma non è che siamo lì come prezzo, non è che guardo il chilolire, quello manco lo guardo, Giulio, non è quello il problema. Ma soltanto ripeto che non voglio prendere materiale buono, perché è un materiale che mi va bene così, ho fatto altri mobiletti e grazie a Dio sono veramente belli. Cioè, come lo voglio io, che ho fatto in porta attrezzatura, Claudio l'ha visto in casa mia, quei due che ho fatto, a parte quando faccio il baracchino che è in camera, quello è troppo mastodontico, è troppo grosso, che cavolo, ho messo anche le ruote a chi pensa a Gesù Cristo, che avanti qua. È bello quello, già va bene, non c'è problema. E vabbè, per quello che deve fare lui giù, è più che ultimo, eh. Sì, ma se già mi sta dicendo che è preso più o meno quella cifra intorno ai 50 euro, tanto vuole prendere un materiale pregiato, no? Che mai sia così? Io, non riesco a capacitarmi come tu possa prendere un materiale per la stessa cifra inferiore, su tutto lì, guarda che è litellare, puoi avvitare, puoi mettere perché è legno dentro me, è rivestito un pannello rivestito ed è esattamente come il documento, è giù chiaro, bello, insomma è un bel materiale, è adatto per i mobili ed è anche già levigato e tutto quanto, non è barato che fatelo tagliare su misura e assemblarlo, basta, e sei pronto direttamente a lucidare o tonire, prendendo la stessa cifra con un materiale superiore, è quello che intendo, poi fai come credi, ti assemblano, non è che hai bisogno del mio consiglio, però io ti sto dicendo da esperto cosa devi fare, poi vedi un po' tu. Sta parlando della tavola lamellare praticamente. Non lamellare, una lamellare è una cosa, io sto parlando di listellare, e deve essere listellare. Chiedi, quando vedi, tu vedi in alto, c'è listellare ed è spesso 19 mm e va benissimo anche per affittare, per fare i collegamenti, perché è tutto legno fitto, che poi è rivestito con un compensato da una parte e dall'altra, entrambi, però di materiale pregiato. Ecco cosa intendo io, ed è per quello che ti sto dicendo, è spesa per spesa, tanto vuoi ti prendi il pannello e hai un materiale come si deve, no? sia inferiore ad un metro e casomai di gran lunga superiore, indeformabile e tutto, oltretutto, a differenza della bestia che magari si può anche viziare durante l'esercizio quando ci sarà molto caldo, mentre quando non succederà mai, mai, mai niente. Ok? Siccome mi avevi parlato di rivestito, cioè che allora sarà lamellare, perché il lamellare è rivestito lo stesso. C'è qualcuno che ha bussato, si può, avanti. Sono io, dai, sono rientrato, stavo cambiando apparecchio, così almeno con questo penso che mi sentiate meglio. Non aspetta che rispondo subito a Tonino, no, il lamellare non è rivestito, il lamellare è una serie di pezzi di qualsiasi misura messi, incollati tutti insieme, quello è il lamellare, è diverso, quello là si chiama listellare, è diverso, Tonino, vai. Allora io quando aspetta, mi serviva un tappo per coprire la centralina alla scuola e l'ho chiesto al magazziniere, mi serve un tappo di queste misure qua. E ho capito un lamellare e mi ha dato un piccolo pezzo di tavola quadrata, insomma la misura l'ho dato io giustamente, e è tipo formica, dice questo è il lamellare. Hai capito insomma che ti ho detto il lamellare? No, quello non è lamellare. Sta facendo confusione o tu o lui. Quello lì si chiama nobilitato, non si chiama lamellare, quello lì è nobilitato. Il lamellare è del massello, tu immaginati tanti di selle, 3, 4, 5 cm per 3, per tanto per fare un esempio, tutti tagliati a qualsiasi misura e messi tutti insieme, incollati perfettamente e poi levigati, quello è lamellare, e cioè legno solo ed esclusivamente massello. Mentre invece quello che stanno a testa sta dicendo di fumo, che quello lì è nobilitato e depresso, capito? E l'altro ancora è listellare. Ci sono diversi tipi, o Tony. Scusate Claudio e Gianni. E comunque, niente, io vedo per fare questi lavori qua, per me, per quello che mi serve a me, mi va bene quello o il multistrato, perché con quello che io sto usando io, devi bucare col trapano, fare il foro per la vite, più piccolo per mettere la vite eccetera. Mentre invece con multistrato entri la vite direttamente e non ti spacca il legno, capito? Con la vite invece spacca. Tutto qua. E ok, chiudiamo questo discorso, che molta gente dirà, avanti, avremo la legna piena. Avanti Gianni. Sono Marisella. E continua a fare delle confusioni. Il multistrato non è altro che compensato con tantissimi strati. La parola stessa, multistrato, cosa vuol dire? Vuol dire una serie di strati tutti incollati insieme per una durata di un certo spessore, che cioè solo compensato, anche se è grosso 3 cm, sempre il compensato si tratta. Va bene, allora, chiudiamo questo discorso. Avanti Claudio. Matteo Giulio è una buttata a operare con legno, e non hai comprato nulla. Poi ti faccio la domanda io, perché volevo capire questa base che hai fatto tu, perché sono come il giorno che l'hai fatto, che materiale se è così. Avanti Berivella, Berive, centrato e scinto, già ne riprendi. Vabbè, comunque interessante fare un biglietto come si deve, dopo il materiale si conta, ma se lui non ha grosse pretese, va bene anche quello lì là. Rimane un po' grezzo, tu di quello che usi tu, nel senso che è un materiale che non è rivestito, capito? Sembra cucciolare pressato, una cosa del genere, non so come si chiami, però io li ho visti molti, sono belli come sono fatti, però il materiale rimane un po' grezzo. Lo so, è ruvido, cioè giustamente, quello che c'è in camionetta, cioè baracchino è figio, è ancora tutto, sembra tanta segatura incollata, ed è tutto, la valle è pesante, quello ho fatto per il baracchino, infatti ci puoi, mi posso coricare anch'io sopra, e ti mantiene perché è molto grosso, ma ripeto, da un lato voglio farlo più leggero, e la mette li passo l'impregnate, lo faccio a colore un pochettino scuretto. Vabbè dai, lo faccio pure per passare il tempo, per ripicciolire diciamo al guadagnare un po' di spazio in più qua tramite il camionetto dove c'è il letto e dove c'è il mobile io, capito? E lo faccio molto meglio di questo che c'è adesso come struttura. mi interessano solo quelle e basta. Ok, dai, non voglio monopolizzare, sennò poi veramente mi tirate la linea a testa. Avanti giù. Ok, va bene, dai Tony. D'accordo. Ti ho spiegato alcune cose, poi vedi tu. Tra le conclusioni, aspetta solo a te. Se poi vuoi utilizzare il multistrato, che sarebbe compensato, che c'è di vari spessori, puoi prendere quello da 2 cm oppure da 22 mm, 2,2, e lo devi comprare se dai il colorante, cioè l'impregnante colorato, devi prendere il pioppo che prende benissimo il suo colore, a differenza di altri legni, il pioppo prende compensato di pioppo, multistrati di pioppo, capito Tony? Vabbè dai, a parte quello, non ti dico altro, fatto. Avanti, Claudio. Io ho scelto un attimo in bianco, se c'è qualcuno vuole entrare siamo qua. Ho detto Giulio, quelle basi che hai fatto tu a me, le hai fatte già da tanti anni e sono sempre lucide, quello cos'è? Quello lì è Noce Daniela, tamburato, Noce Daniela tamburato, cioè all'interno c'è un telaio in legno e poi è rivestito col compensato di Noce Daniela da una parte e dall'altra, e dopodiché è verniciato con vernice poliuretanica indistruttibile, vernice durissima. Naturalmente devi sempre fare attenzione, perché trattandosi di materiale lucidato e graffiti puoi fare lo stesso, però è un materiale pregiatissimo che costa un sacco di denaro. Ogni foglio di quello, lungo un foglio grande che so io, 122 per 220, 225 di altezza, costa intorno alle 60 euro un foglio solo di compensato, praticamente il rivestimento di quei pannelli che ho fatto a te. Va bene, avanti Gianni. E invece i mobili neri che materiale sono, di che legno sono? Quello è listellare, quello lì è listellare di Noce Tanganica, che è sempre lo stesso. Listellare cosa significa? Legno tutto affiancato, fitto l'uno all'altro, e poi rivestito da una parte e dall'altra con compensato Tanganica, che è un tipo di noce, si chiama Noce Tanganica, che è quel pannello che stavo consigliando io poc'anzi a Tonino per farti il mobiletto, che costa 54 euro un foglio di 2,22 m per 122, a differenza della bette che ha comprato lui spendendo gli stessi soldi, con un legno molto ma molto meno pregiato. Avanti Gianni ancora. No, ma questo qui già va bene, anche quello dello stereo mi piace molto. Chiameremo perché il fratello ci ha pregiati, dai. Allora cosa li facevo? Il mobile di baracca li facevo a Gianni, ci mancherebbe altro. Sia il mobile del baracchino, sia il mobile dello stereo, eccetera, e anche quello dell'acquario già, tutto preciso, è tutto dello stesso materiale. Ed è indistruttibile, perché è il miglior materiale per fare i mobili. Intendo per fare tutta la struttura dei mobili, cioè la cassa, come la voglio spiegare, non gli sportelli, ma anche gli sportelli si possono fare benissimo, però gli sportelli, siccome possono avere diversa forma, diversi disegni, allora si devono trovare anche altri accorgimenti. Però la cassa costruita in listellare, io parlo della cassa, che sia in Noce Tanganica o che sia in listellare di pioppo, cioè di compensato bianco praticamente, oppure che so io di qualsiasi altro legno, di qualsiasi altra cosa, va sempre bene, perché sono materiali indistruttibili, non è tamburato, vuoto dentro, non ne trovi, è tutto fitto. Dove metti la vite è sempre pieno, ecco qual è il vantaggio soprattutto di quel materiale, oltre al fatto che è già svenato, di conseguenza indeformabile. Avanti Tonino. E K è entrato di nuovo Bricicletta, avanti Luca. Chi lo entra per di bella e non entra mai. Luca, non ha gana. Cavalletta. E è andato a fare un giretto, dovrebbe essere, dai. Avanti Claudio. No, quello, cioè io le basi sono lucide come ginocchia fatte, perfette. Io come avevo detto tu passo solo il panno umido per la polvere e basta. Sono veramente materiale qui. Quando l'ho abbassato per togliere le radio, ho tolto l'altra base, minchia, proprio bisogna. Pesante. Ma già mi ricordo quando l'avevi portato, te l'ho dato la mano io a portarlo su. KK, riprendi Giulio. Quelle sono forti. Se non, non ti avrei detto ci puoi salire sopra coi piedi, no? Non ti avrei detto così, se non sarei stato sicuro della resistenza del pannello. Glielo credo, per cui è ovvio che se uno utilizza, è come quando uno va al ristorante, se ordini carne buona, pesce buono, mangi soddisfatto, se invece domandi un'altra cassura, è logico che quando ti alzi dalla tavola non sei soddisfatto, perché hai mangiato un'altra cassura. E così è qua, dei lavori si fanno con i materiali buoni, se i materiali sono buoni, poi naturalmente se uno non li sa fare è un altro discorso. Lavori, ma se uno già fatto col materiale buono, almeno il lavoro è garantito almeno al 50%. Avanti di Tonino. Quindi col materiale che è usato sia per Gianni che anche per Claudio praticamente, ma poi fanno verniciati oppure sono già pronti così a costruire come si dice a Bucazza e basta. Quel materiale che ho utilizzato per Gianni è un pannello già costruito, quello invece che ho utilizzato per Claudio l'ho costruito io con le mie mani. L'altro invece era un pannello che si prende, si taglia su misura, si squadra e si assembla e poi si lucida con le varie vernici, utilizzando anche le vernici coloranti che possono essere di impregnanti coloranti, sempre da effetto normale, non da effetto cera, perché sulla cera poi non attaccherebbe bene la verniciatura, perché uno è l'impregnante, l'altro è la verniciatura, che sono due cose completamente differenti. Allora, per colorare si utilizza l'impregnante normale, tenendo presente che se ne dai una mano ha un colore, se ne dai una seconda mano ha un altro colore più forte e così via, più ne dai e più forte diventa il colore, quello puoi dipendere da te, ma una volta che è ben asciugato allora si va avanti con le vernici poliuretaniche a due componenti, e cioè vernice e catalizzatore catalizzato in percentuale a secondo del tipo della vernice al 20, al 30, al 50% e diventa uno specchio, come passare la mano su un vetro diventa, dopo che dai lavorata e carteggiata è spruzzata con la vernice a finire con la sempre poliuretanica, ma a finire, perché uno è il fondo, quello catalizzato che ti ho detto prima, poi c'è la vernice catalizzata a finire, e cioè la vernice finale, quella che ti dà la lucentezza al lavoro. Capito Tony? Capo. Ma c'è anche l'impregnante cerato, perché l'ho usato qua in campagna che l'ha preso Sio Vittorio, che devo fare un lavoretto, e anche l'impregnante cerato che a me poi dove piace, perché vado asciugato, non è che ho visto questa gran cosa. Allora, l'impregnante cerato innanzitutto ha bisogno sotto di un fondo, e cioè sempre di un impregnante normale. Dopo che l'impregnante normale si è asciugato, dopo 24 ore, ci va una leve carteggiatura con una carta vetrata sottile, se non è grave, se non il colore chiarato lo togli, o addirittura con una spugna abrasiva sottile sempre, senza modificare il colore, perché se freghi forte fai parti chiare e parti più oscure, fai, perché ne togli il colore, devi stare attento, e dopodiché devi dare l'impregnante a cera, idroirrepellente si chiama, impregnante idroirrepellente, cosa vuol dire? Vuol dire che l'acqua non attacca, e cioè scorre via, e questo tipo di vernice si utilizza soprattutto all'esterno, per le finestre, per i portoni, per queste cose qua, ecco, tutto lì ma anche per l'interno si può usare, però naturalmente usando per l'interno cosa approssimativa. Avanti Claudio. Vai Tony, rispondi. Sì, Ciro, in effetti quello impregnato e gelato l'ho fatto all'esterno io, giustamente. Non era per l'interno. Sì, infatti era proprio per l'acqua, quello lo so. Ecco, noi usiamo le canalette per l'esterno, le mettiamo in idrobox, le plafonire, eccetera, perché l'acqua non deve entrare. Quindi si chiama idro perché per le acqua e box perché è chiuso con, praticamente il stagno, non entra l'acqua. Vabbè dai, sino qua altro del ciò che ma che tu sta anche arrabbiato gai. Avanti Gianni. Sì, poi al limite con una pressione tu ti apri a fare gnammeria. No, c'è l'attrezzatura però ripeto, faccio gli fai da te, capito? Qualche mobiletto che qualche amico se ne vuole non glielo faccio. Per esempio Emanuele mi ha dato una specie di mobiletto per carindai. Guarda, meglio non vederlo, l'ho tutto smontato e l'ho fatto come voleva lui. Te l'ho fatto uguale identico, ma altre misure. Mi piace fare queste cose qua, non dico che sono maestro a fare gnamme, no. E sono uno che mi arrangio, in base a quello che mi viene in mente di fare lo faccio, mi faccio il disegno, lo voglio così, lo faccio così. Ripeto, non tolgo niente a Giulio che lui era un maestro a fare gnamme, come io sono elettricista, quindi. E niente, ognuno ha il suo mestiere, però io ripeto, nel mio mi piace quello che faccio. Poi, ci avrà qualche difetto, non lo so. Comunque, mi arrangio e mi va bene così. E io sempre i baracchi mi interessa perché ci stiamo sopra senza sfondarlo. Da buio, già va bene. Avanti Claudio. Sì, non ferma. Dani, ho visto i lavori fatti da te, Tony, dai, ce vanno bene. Per non essere un professionista a falegname, già te la cavi, sicuramente meglio che me. Su quello non c'è dubbio. Avanti, Giulio. No, a me mi piacciono le persone critiche, mi piacciono le persone che si arrangiano a fare di tutto. Io le ammiro, guarda, figurati, una persona come Tonino io lo ammiro perché il suo mestiere non è quello, sono altre cose, ma poi si arrangia per tante altre cose, questo vuol dire essere eclettici. E va bene così, perché io sono sempre dell'idea che dalla mano dell'uomo non deve mai sfuggire niente, non deve assolutamente scappare mai niente. Uno, chi di più, chi di meno, si deve sempre adattare a fare le cose. Poi ci sono quelli che sono completamente adeguati e quelli vanno bene solamente, non voglio offendere nessuno, ma a fare la cattapalle, chiamiamolo in gergo sportivo. Tutto lì. Avanti Tony. Scappa, te li metto giù. Niente, io ho fatto dei lavori, ripeto, visto come si fanno, li ho fatti anch'io. Mi hanno chiamato a Porto Cervo, ho rivestito un negozio di intima donna, tutto in moquette. Alla fine mi hanno fatto l'applauso, roba di da bere, c'era, guarda, l'infinità, persone francesi, eccetera. E questo negozio c'è ancora. E poi qua vicino a fianco ho fatto il rivestimento di cartone catramato, visto come si fa, e l'ho fatto anch'io, e l'ho tutto cucito intorno, poi mettevo dei chiodi con le rondelle, insomma, ho fatto anche un bagno completo, ho fatto l'impianto luci qua che sembra che mio figlio c'è in bar all'aeroporto. A me piace molta luce, io dove sono io, a me la notte, il buio in campagna, non mi piace, più luce c'è e più sono contento. Anche Claudio ha visto come luci, io penso che va anche troppo bene, vero Claudio? Ehi, arrabbiata, vai, arruglia, ottimo per la truppa, vai già, doppio room, riprendi. Gianni, infatti nel giardinetto quelle sfere che ho messo con il tubo, come chiami, vetrorigina, le piante tutto sotto traccia, sotto terra, col tubo corrugato gommato, tra l'altro. E infatti adesso voglio mettere il crepuscolare, che è lo che dovrei fare a te, diciamo separare però le sfere di fuori, il crepuscolare, si accendono soltanto quando dovete brunire e si spengono la mattina. Quello per fare a te una fecilia se ci puoi fare. Sì, sì, adesso poi appena un istante ha salto col coso per vedere dove mettere il motore del cancello. E poi andremo per vedere anche queste cose. Gianni, ci sei o no? Io sì che ci sono. Stavo cambiando apparecchio. Oh, ragazzi, siccome te ne ha chiamato 4. Tutti devono girare, Tony, tutti qua. Fili con salve, mamma. Mamma, mi piace un culo di malassento. Minchia. Gianni, ti faccio una giostra, così li metti sopra e li fai girare tutti insieme. E poi, volando con uno e gli altri li fai girare contemporaneamente, così almeno ti soddisfa. Vabbè, comunque Tony, ti annuncio che anch'io sono elettricista, se ti interessa, che ne ho già fatto 12 anni e io mi ricordo perfettamente, per filo e per segno, tutto il mestiere. Poi per pura disgrazia della ditta dove lavoravo, ho cambiato mestiere, o meglio, mio padre mi ha portato con lui e dopodiché ho fatto 60 anni di gozo, di falegname, tutto lì, Antonio, riprendi. E te, avanti che sappi di bella gà, non entrano, se non si dovegliano. Oh, niente, nel caso della 50 ho rivestito il muro tutto matto, quei mattoni belli grossi, belli, ho fatto un bel lavoro, un bel placcaggio, ci ho messo tutta notte, ci ho fatto la 50, me l'ha detto, tutta notte non si dormi, per finire, e fate così. Niente, ripeto, mi applico, Giulio, mi piace fare questi lavori qua. Infatti mi sono promesso che quando adesso vado in pensione, da settembre, non mi so con le mani in mano come ha fatto mio zio, che ci è riuscito, no, hai piacere fare, è sempre in movimento, perché se ti fermi si è perduto, giusto? Certamente sì, ma quello non ci sono dubbi. Io per esempio, ma gli ho fatto la circolare io, sopra, adesso ce l'ho in mansarda, ti puoi immaginare, ce l'ho in mansarda, oltre alle macchine professionali che ho in falegnameria, vado il banco Sega a casa, ti puoi immaginare, me l'ho costruito io, vabbè dai, comunque, se vuoi, perché si può costruire tutto con legno, anche le macchine di falegnameria, tutto indistintamente, squadratrice, carrettatrice, topi, banco Sega, così, qualsiasi cosa si può costruire, sempre con legno. Si tratta di sapere e di avere un pochino di iniziativa, basta un motore, anche un motore di lavatrice, o può addirittura con un trapano, o che so io, con una smerigliatrice di quelle da ferro, eccetera. Basta che mangi un motore, si può costruire qualsiasi cosa, trappa la colonna, tutto di cui va, tutto indistintamente. Con tutto il funzionamento sali e scendi, anche per il disco, per dire, del banco Sega, perché non sempre il disco deve essere alto, ti può servire basso e devi fare anche l'applicazione per salire e scendere. Basta avere un pochetto di inventiva e la vita diventa facile. Vai Claudio. Vabbè, diventa facile per chi sa fare le cose, per uno che non le sa fare è sempre la matricettoria. Vabbè, comunque, KK, Elisei, vuoi entrare? C'era no, Luca, sarebbe nervario, avanti già, riprendi. Lucrezia, entra che devo chiedere una cosa, mettila a fare, lui dice solo per il bello e basta, è capitato così oggi, e dei gusti, dai, questo qua è Super Side Sidekick. Questo è il Galaxy. Galaxy con Super Sidekick. Adesso domani sono anch'io di nuovo con Super Kick. Ma vedi Dammer, ragazzi, vedi Dammer, è troppo complicato questa goccia. Io dico sempre Dammer, è boh, Dammer più 3, boh, poi Super Kick, è sempre Dammer. Non stai andando bene già, non c'è problema. Avanti giù. Ok, ti ho fatto Turner Tirighetta, così almeno capiamo di quale microfono state parlando, e non è complicato. Va bene, dai, va bene così. Dice a Gianni, ancora non si è rotto il mobile dello serio, Gianni, o quello dell'acquario dove c'è tanto peso sopra, non ti sei ancora scelato? Non sai dove c'ho le mani. No, grazie a Dio no, non si è ciutato, non si è rotto niente. No, già sono fatti bene, dai. Cosa ti volevo dire? Si chiama Super Sidekick, che vuol dire calcio d'angolo o laterale, dai, calcio laterale. Praticamente questo microfono veniva usato per le bande laterali, l'hanno chiamato così per quello. Sì, lo so che è così. Va bene, dai, comunque. Andare, vediamo se entra Luca. Luca, io entro, dai. Non ha gana, dai, non ne ha voglia. Vai, Tony. Ecco. Tornando al discorso di Claudio, se mai ti ci metti, mai ci riuscirai, non dice io non gioco a fare una giocata, anche io non sai può fare. E io ho provato su me stesso, esce a farmi questo qua, come esce? Sto sbagliando o no? Adesso cerco di rimediare, piano piano, tutte le cose sono così, nessuno è nato imparato, capito Claudio? Se tu non ti ci metti, vedrai che tu sarai più bravo dei bravi, perché arriverai così. No, con il tutto non c'ho dimestichezza, ma è bricolage. Con sincerità, proprio mi stufo, capito, non è una cosa che non ho mai, sì, qualche volta mi sono messo a fare qualche mensolina, qualche tronzata, ma non è lavoro per me, davvero, non sono cose che mi, magari guarda adesso, parlandomene in campagna, ho più tempo libero, ci sono un sacco di cose da fare, magari mi appento e qualche tronzata la faccio sicuramente, mi piace più la muratura, vedi? Fare muratura, fare queste cose così mi arrangio di più, ma lavorare il legno proprio non ti deve nascere, proprio avere molta pazienza, molta dimestichezza a lavorare il legno, molta precisione, io non so così, sono molto pignolo, ma a volte la precisione la lascio anche perdere, capito? Ma io ripeto, a me piace molto più il legno che la muratura, la verità. Mi è capitato di fare muratura, nel caso della mia ex 50, e ripeto, ho fatto bei lavori, ma dopo ci diamo c'è alta, perché non so che vado, faccio la terapia e poi ve la faccio vedere. E niente, però mi piace molto più lavorare sul legno. Sarà quello che vuoi, a me mi piace più. Forse perché lavora più pulito, lavora più, non lo so. E sull'elettrico, ecco, stesso, fare impianti eccetera eccetera, però sul legno mi piace perché se tu copri la tavola, tagli come vuoi tu, devi prendere misure con calma, ci vuole pazienza, se la tagli tra la sagoma della piazza, quanto dice, che bel lavoro che ho fatto, cioè a me mi dà più soddisfazione. Sì, ti capisco, ti ho visto lavorare, non è che non ti ho visto. Hai molta pazienza, forse il tuo lavoro stesso, l'elettricista ti porta ad avere molta pazienza, molta dimestichezza, precisione, attenzione. Io non sono di quelli, non l'ho mai fatto, quindi no. Ripeto, qualche cazzata l'ho anche fatta, però preferisco, vedi, come chiamo chi deve fare le cose, me lo fa, io queste basi che mi ha fatto Giulio sono eterne, perché io ci ho messo di tutto di più sopra, guarda, di tutto di più, sono veramente delle basi eccezionali, molto robuste, fatte bene, sono lucide come il giorno che le ha portate, ci sto molto attento anche a non graffiarle, perché i microfoni hanno sempre tutti i gommini sotto, metto i filtrini anche nelle radio, cioè a quelle cose ci sto molto attento, perché sono molto pignolo in queste cose, però non riesco a farle certe cose, capito? Assolutamente, come anche gli impianti elettrici, non io ti posso abbassare un cavo da una presa all'altra, ma non mi dirò un impianto intero perché non lo so fare. Ci sono sincero, non è il mio lavoro e quindi non lo capisco tutto, la parte elettrica per carità so perfettamente tutto, ma non mi dirò un impianto elettrico con la gas che non è lungo. So lavorare un po' di più rispetto a un impianto di casa su un quadro elettrico di un impianto dove ho lavorato, ma perché ci ho fatto l'esperienza, che altre cose, capito? Ognuno il suo, Tony, ognuno il suo, vai giù. Beh, sicuramente sì, ognuno il suo mestiere, però ci sono delle persone appunto che si adattano a fare tante cose e va bene così, ed è un piacere vedere delle persone che si adattano e si arrangiano in vari lavori. Sì, vai così, sì. Allora, tornando al discorso che ha detto Tonino, il legno senza togliere niente agli altri mestieri, perché i mestieri sono tutti validi e tutti meritano grande attenzione, ci mancherebbe altro, però il lavoro del falegname, cioè la lavorazione del legno, è quello che secondo me ti soddisfa di più moralmente. Perché? Perché quando hai fatto un lavoro sei soddisfatto, perché hai costruito tutto, perché hai preso tu per dire l'albero e ti hai fatto un mobile, ti hai fatto una casa, sorprendire, no, a differenza di altri lavori magari non sono così soddisfacenti. Ecco perché Tonino ha detto che il legno è il mestiere più bello che c'è, perché io lo so anch'io, però tanto di rispetto per tutti gli altri dei mestieranti e mestieri, ci mancherebbe altro. Però non mi hai risposto poc'anzi Tonino, forse non mi hai sentito, ti ho detto che io so fare anche l'elettricista, perché mi ha giocato 12 anni, oltre a fare l'elettricista, ho fatto anche l'antennista nel contempo, dunque io il mestiere ne ho 3, ne ho imparato 3 nella mia vita, e ancora oggi, dopo tantissimi anni, dell'elettricità mi ricordo tutto, per filo e per segno, avanti Tonino. È il capo sì che l'ho copiato poco fa che me l'hai detto. Io sono qualificato carpentiere in legno, specializzato elettricista. A parte queste due cose che ho, altri lavori che io mi sono impegnato, mi piaceva, guardavo. Allora io, guarda, ero profano sui serramenti, per esempio. Nelle scuole vedevo come facevano le tapparelle, che è una cazzata, però il feto, per me ero zero. Beh, al maestro ne ho fatto 3-0, aggiustato la tapparelle, sono diventato talmente bravo, che io me le facevo io. Alla fine Giovanni mi ha detto, oh, tu devi fare la roba, non devi fare le tapparelle, ci sono i serramentisti per farlo. E per dare una mano, ce ne sono parecchie rotte, quindi cambiare il cerrullo, cambiare la calotta, cambiare la pulizia, eccetera, eccetera, o la corda, insomma, con la molla. E quindi mi davano a fare perché mi piaceva. E quindi imparavo, come dice, l'arte mette la parte. Io ho imparato tante queste cose piccoline, diciamo. Certo, non sarò perfezionato al 1000 per 1000, come lo sei tu, perché quella è la tua qualifica, giustamente. Però ripeto, mi piacciono tutti i lavoretti. Quando mi ci impegno lo devo terminare, basta. Ovviamente se mi stanco prima, mi riposo un po' poi continuo. E ripeto, quando vado in pensione non mi sto certo fermo. Perché mi sono comprato questi macchinari io? Perché giustamente ho l'intenzione di muovermi, di fare e di essere soddisfatto di quello che faccio. Quindi qualcuno che mi chiede qualcosa gliela faccio, non c'è problema. È il mio passatempo, è il mio coso di vedere le cose. Quando le faccio sono soddisfatto. Ho detto una cosa sacrosanta, giustissima, che a me piace il legno, perché lo dici anche tu giustamente. Perché ci ho lavorato, ho fatto i mobiletti che io volevo fare per me, ho detto se sbaglio sbaglio per me, e mi sono usciti bene, sono soddisfatto, è uscito come l'ho voluto io, capito? Ecco perché mi piace il legno, perché riesco a lavorarlo, a costruirlo da zero, e quando l'hai finito dirai, questo l'ho fatto io, te lo guardi e dici, ma io l'ho giovato, e me ne meravigliato, è soddisfatto, tutto qua Giulio. Io ma se che non sa fare lo so. Io sono convinto che tu sei capace, perché no? Me lo stai dicendo e ci credo, ci mancherebbe altro. Non hai motivo di dire una cosa che non è vera o sono io, ci credo a quello che mi stai dicendo. Perché ripeto, ce ne sono tante persone che sono bravi, bravi hobbisti, veramente. Tu praticamente sei un bravo hobbista e indubbiamente va bene così, no, non c'è dubbio. E questo è bello, te l'ho detto da poc'anzi. Per me una persona che fa certe cose, che si sa arrangiare a fare tanti lavoretti, è una persona secondo me molto intanto intelligente e soprattutto che ha la voglia di applicarsi a fare certe cose, e sono contento per chi li fa, perché io non sono mai stato geloso né del mio mestiere e soprattutto non ho mai chiesto niente a nessuno, perché io ho solo guardato con i miei occhi e ho imparato quello che vedevo dai più anziani di me. Dunque poi mi sono formato, perché con gli anni ti formi, è ovvio, no? Questo vale per tutto, non solamente per i mestieri, ma anche per la vita, anche come persona, come uomo, eccetera. E succede così. Poi ci sono le solite persone sbandate sono nate e sbandate rimangono per tutta la vita. Avanti Claudio. Si conferma, ecco, no, ma infatti non è che uno non ha voglia di applicarsi o fare, c'è quello che magari è più portato e si applica. Io non ho mai fatto queste cose, ho sempre seguito il mio lavoro e le cosettine che interessa che mi possa fare le faccio, quelle che non riesco a fare le faccio fare ad altri, capito? Tutto qua. Vai Gianni. Io a Torino gli ho detto, io non so il lavoro che non sai fare. E cioè? Il contadino, ti si sono seccate tutte le piante. Dai che non posso inchinarmi, non posso fare niente che sto male. Ammazza, Guarda, io qua all'entrata qua, quando sono andato a abitare qua, laggiù che abitavo, c'era questo pavimento che è fatto tutto in castro praticamente, e andava in salita gonfiato. Mi sono messo un bel giorno, piano piano me ne sono tolti, e sotto c'era una bella radice, l'ho tagliato tutto quanto, ho rifatto di nuovo il massetto con la sabbia e l'ho fatto in piano, grazie a Dio. Quel cancelletto che c'è l'ho fatto io, e questo l'ho fatto parecchio tempo fa. L'altra porta che c'è qua stessa, che va a finire nel cortile, c'è grazie la buonanima, lì l'ho fatta io quella porta. Tanto è vero, quando l'ho fatta e tamburata quella lì, l'ho messo anche la serratura, l'ho messo la maniglia, e a me mi ha detto la padrona, signora Maria, per la figlia, questa qua ha speso 2 soldi, questa una prima pioggia si gonfia. Sono passati 8 anni e ancora intatta quella porta che ho fatto io, ve la faccio vedere. Ho detto, questa è fatta bene, e vedrà che non si muffa, come sta dicendo. Infatti sono passati 8 anni e ancora intatta. Ripeto, non mi giudico che sono bravo, io dico sempre, sono anche umile, io mi arrangio. Se ci sarà qualche difetto, pazienza, vuol dire quando me ne accorgerò farò la roba anche meglio. Tutto qua. A Gianni del dato ne spara uno, ne spara. Avanti Claudio. Beh, io appoggio Gianni, caro amico mio, perché quando sono venuti a casa tua l'orticello c'era, i pomodori c'erano, i citroni c'erano, alla fine ti sei seccato il butto, quindi hai ragione Gianni. No, mi lascio magnati, io chissi, adesso mi sei seccato il butto. Non lo so Gianni, la verità sta dicendo. Le lattughe si sono seccate. Le lattughe, allora un'altra cosa, no, io sono rimasto indietro, quando sono venuti da te non c'erano lattughe, c'erano pomodori, citroni, era tutto a posto. KK, e già, mi fa l'ortolano, l'agricoltore, ma le bucce di Giorgia, anche quella è una cosa, ad esempio, mio vicino di casa mi ha detto proprio l'altro giorno, mi ha detto, Clami, io mi sono fatto l'orto, quello a fare burudumi, domani ce l'ho a fare in 2 famiglie, a me non mi sei cacchio, non mi sei buono. Avanti Giulio. E si dimenticare di sciccare, di indaffiare. Vabbè, anch'io di roba di campagna non ne capisco niente, è la verità. Anch'io non sarei capace di fare il contadino, tanto meno l'agricoltore, perché non ho mai seguito certi mestieri, per cui va bene così. Comunque, è già troppo che ci voglio parlare la vita, a voglia, magari fossero tutti come me, senza nessuna presunzione, ma ti posso garantire che a me non mi è mai sfuggito niente, sto tornando nella maniera più assoluta, per cui sono contento così, anche se il mio diciamo, la mia passione non era tanto il legno quanto l'elettricità, o Tony, perché ho iniziato all'età di 10 anni, ho iniziato a lavorare dal negozio lì di fronte al Lupi Vecchio, la Fiorentina prendeva i lavori e li passava a un certo signore elettricista, un signore nel senso assoluto elettricista, che si chiamava Mallio Artemalle, non so se tu l'hai sentito, i figli sicuramente li hai sentiti, ma lui il vecchio probabilmente non l'hai mai sentito. Io ho imparato da lui a fare l'elettricista, e ci ho fatto 12 anni, non un giorno, 12 anni. Nel frattempo poi purtroppo la vita dove lavoravo, cioè questa vita, la Fiorentina, è arrivato l'ufficiale giudiziario, signora Bassi la Serranda, e mandi i dipendenti a casa. E così è stato, da quel preciso istante io ero già grandetto, però lavoravo già da solo e facevo gli impianti da solo, naturalmente con l'aiutante in cantiere, sempre, Palazzoni, e mio padre che era capo operaio nella ditta, in una ditta, mi ha fatto, io quanto stai a trovare lavoro, vieni con me, vieni. Lui era il capo operaio in una falegnameria, da quel preciso istante è incominciata l'era della falegnameria anche per me. E grazie a Dio mi ha giovato 60 anni quasi, per cui ti puoi immaginare, o Tony, questa è la mia vita, carica di lavoro di 60 anni praticamente, 62 anni in tutto mi ha giovato di travaglio, non è poco, no? Mi sembra che sia abbastanza, ma comunque va bene così, non mi lamento. Avanti, Tony. E il K giù. ma ripeto, uno quando se la sente, giustamente non dico di strappare perché...